GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Scuola, avvio ufficiale in tutte le aule della regione, ma nelle segreterie corsa a ostacoli per non perdere i fondi PNRR. Nel comune di Morrupino sul Carso triestino la sindaca costretta a sistemare 5 stranieri minori non accompagnati nella sala consiliare per la notte. Morti sul lavoro, triplicati gli incidenti fatali in regione, a Trieste, evento INAIL per ribadire l'urgenza della prevenzione. Stadio Rocco impraticabile, tifosi infuriati, atteso a momenti un comunicato congiunta di Triestina Calcio e Comune. Pordenone legge al via fino a domenica oltre 300 eventi. Oggi tra gli ospiti lo scrittore ucraino Kurkov racconta il Donbass. 12:31, buongiorno da Anna Daciok e Rita Micoli. Cominciamo parlando di scuola. Per qualcuno è già il terzo giorno tra i banchi, anche se ufficialmente si iniziava questa mattina in tutto il Friuli Venezia Giulia con l'ingresso a scuola di altre 7.000 classi. E mentre in aula le lezioni entrano nel vivo, le segreterie sono messe alla prova sui fondi PNRR. Sentiamo. Il registro elettronico fornisce una serie di servizi. Nuove regole, nuovi orari e nuovi ambienti per gli ultimi studenti arrivati al Malignani di Udine, il benvenuto del dirigente scolastico e poi una introduzione soft in Aula Magna. In Friuli Venezia Giulia la scuola inizia ufficialmente oggi, anche se molti dei 135.000 studenti, 1.000 in meno rispetto all'ultimo anno scolastico, hanno fatto la cartella già qualche giorno fa. Cosa ti aspetti da quest'anno? Un anno tosto rispetto a quelli precedenti. L'obiettivo di quest'anno è uscire, diciamo, anche ai voti minimi per uscire. Nelle segreterie, intanto, è una corsa ostacoli per ultimare gli acquisti di nuove tecnologie grazie a due linee contributive del PNRR, centinaia di migliaia di euro per ogni istituto. Il tempo è tiranno, data ultima 30 settembre. Per comprare delle smartboard o un gas cromatografo per il laboratorio di chimica, il personale amministrativo deve sapere utilizzare 6 diverse piattaforme. Se manca un codice, si blocca tutto. Senza contare, indica Massimo Gargiulo, segretario regionale CGL Scuola, adempimenti che una volta non erano di competenza degli istituti, come le pratiche di pensionamenti. Sindacati e presidi sollevano il problema della qualità del sistema di reclutamento. Solamente l'ultimo contratto recepisce il possesso delle certificazioni informatiche basiche in un sistema concorsuale in cui la dattilografia fa ancora punteggio. Oliviero Barbieri, dirigente scolastico del Malignani. C'è una corsa contro il tempo e io ringrazio molto le mie segreterie che sono disponibili a fare ore straordinarie. Confidiamo sempre in un possibile rinvio della data di scadenza. Paolo De Nardo, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Udine. Molte delle scuole della nostra regione non hanno un capo di segreteria, cioè un DSGA, che sia titolare. Quindi si tratta di supplenti annuali che spesso devono farsi carico di lavori iniziati anche da altre persone, con tutto quello che questo comporta in termini di passaggio di consegne. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trieste, tappa finale della rotta balcanica, si ritrova anche con un numero importante di minori stranieri non accompagnati. La sindaca di Morrupino, piccolo comune sul Carso triestino, non sapendo dove collocare 5 minori non accompagnati, nella notte li ha sistemati nella sala consiliare del comune. Tania Cosmina, sindaca di Morrupino, come avete gestito questa notte con i 5 minori stranieri non accompagnati? Ieri la polizia di frontiera mi ha contattata in seguito al rintraccio di 5 minori e dopo una ricerca di strutture autorizzate in cui poterli collocare ho optato per la sala comunale non avendo altre strutture a disposizione. È un problema gravissimo che grava sui piccoli comuni ed è di difficile gestione. Lei ha addirittura annunciato poco tempo fa che restituirà la fascia di prima cittadina se non si troverà una soluzione. istituzione, perché appunto sono tanti i minori non accompagnati che attraversano anche il suo comune, e alle 13 sarà sentita dal prefetto. Confermo che è un problema che va risolto quanto prima. Abbiamo un decreto legislativo 142 del 2015 che prevede l'istituzione di strutture governative di prima accoglienza, e queste vanno fatte dallo Stato, ovvero dal governo sul territorio. Se non si andrà in questa direzione, sarò costretta a restituire le chiavi e la fascia tricolore, perché è una questione, è una situazione ingestibile, soprattutto per me che sono la più piccola realtà nella provincia di Trieste. In prefettura con lei ci saranno anche altri suoi colleghi, cioè altri sindaci dell'area giuliana? Ho sentito poco fa i colleghi sindaci, mi hanno confermato la presenza la sindaca di Svonico, il sindaco di Duino Urisina, ovviamente il sindaco di Trieste e la sottoscritta. Devo vedere se parteciperanno anche Dolina e Muggia. Triplicate le morti sul lavoro in regione in questo 2023, un dato inaccettabile che va in controtendenza a quanto sta avvenendo a livello nazionale, è stato detto durante il forum sulla prevenzione organizzato dall'INAIL e in corso alla Prefettura di Trieste. Sono diminuiti gli incidenti sul lavoro in Friuli Venezia Giulia, meno 10,29%, ma ci consola poco, visto che sono cresciute invece moltissimo. Purtroppo le morti bianche sono triplicate in questa regione, se ne contano 15 da gennaio a luglio, quando nello stesso periodo dello scorso anno erano 5. Un dato questo al centro del forum sulla prevenzione organizzato nella sede della Prefettura di Trieste, un evento che in 23 tappe sta attraversando l'intero Stilvale, arrivato ora in Friuli Venezia Giulia, regione che ha registrato un anno e mezzo fa una morte particolarmente sofferta, quella di Lorenzo Parelli, studente di Morsano di Castions di Strada, morto a soli 18 anni durante il suo ultimo giorno di stage in un progetto di alternanza scuola-lavoro, una morte che ha scosso la comunità e ha spinto la regione a lavorare molto sulla cultura della prevenzione. Al via da quest'anno scolastico infatti un progetto che coinvolge proprio le scuole, contenuto nella carta di Lorenzo, nata anche dall'impegno dei suoi genitori. Noi siamo con Guglielmo Loi, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL. È grave che accadano le morti sul lavoro, è grave che accadano con questa consistenza, bisogna lavorare. È gravissimo perché nel frattempo si progredisce dal punto di vista della tecnologia del lavoro, delle nuove macchine che in parte sostituiscono le persone nel lavorare, quindi è paradossale che a fronte di questa innovazione continuino a morire persone, lavoratrici, lavoratori e spesso anche datori di lavoro, e quindi intervenire radicalmente dall'inizio sulla cultura del lavoro, della prevenzione e anche, diciamo la verità, maggiori controlli per evitare che ci sia un lavoro, come dire, nero, grigio, che imperversa purtroppo anche in alcune aree del paese come questa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:38, parliamo del manto erboso dello stadio Nereo Rocco. È stata annullata la conferenza stampa in programma questa mattina da parte della Triestina Calcio. Tra poco è prevista l'uscita di una nota stampa congiunta della società Labardata in accordo con il comune di Trieste. Lunedì era stato deciso che la prossima gara in casa della Triestina contro la Pro Vercelli, in programma sabato alle 20:45, si giocherà allo stadio di Fontana Fredda. La vicenda ha fatto scoppiare la polemica da parte dei tifosi, in particolare quelli abbonati, alcuni dei quali non potranno recarsi allo stadio Tognon per limiti di capienza. Ma polemica anche a livello politico sulle eventuali responsabilità della rizzollatura di un campo che risulta impraticabile. Presentato il cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione della terrazza a mare a Lignano, e c'è uno slittamento dei tempi che preoccupa l'amministrazione comunale Elisa Gest. Entro settembre ci sarà la pubblicazione della gara d'appalto europea per la ristrutturazione. La regione ha stanziato 14 milioni di euro. L'inizio dei lavori, ha spiegato l'assessore Bini, è preventivato per gennaio prossimo, con l'attività in mare per il prelievo e il deposito della sabbia necessaria a creare l'area di cantiere per proseguire poi con le opere di demolizione e di ricostruzione. Il nuovo cronoprogramma, ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Marco Donacci, mette davanti al rischio di perdere 3 stagioni. La sindaca Giorgi ha specificato che la terrazza mare è una struttura di primaria importanza per Lignano e per l'immagine turistica di tutta la regione. La sua ristrutturazione, seppur necessaria, deve essere accuratamente valutata. L'incertezza dei tempi di avvio dell'intervento pone difficoltà organizzative, ha sottolineato da parte sua il presidente di Lisagest, Manuel Rodeano, riferendosi alla probabile necessità di rimodulare l'intera offerta dell'arenile. Andiamo a Pordenone Legge, ha preso il via la festa del libro con l'autore, un calendario da oggi fino a domenica di oltre 330 appuntamenti. Per molti alunni il primo giorno di scuola è cominciato con i libri dibattiti di Pordenone Legge dedicati alle scuole. Alla sua 24esima edizione la festa del libro con gli autori tornerà ad affollarsi come non succedeva dal 2019, per la prima volta infatti senza le restrizioni anti-Covid che hanno limitato l'affluenza fino all'anno scorso. Non c'è più infatti l'obbligo di prenotazione per accedere agli eventi e riaprono al pubblico spazi che prima erano considerati troppo angusti per essere sicuri. Gli appuntamenti in programma sono oltre 300, con 65 anteprime internazionali, per uno dei festival che gli editori segnano in calendario come tra i più appetibili per presentare le novità della stagione in libreria. L'inaugurazione stasera alle 18 nella consueta cornice del Teatro Verdi, con un ospite speciale, Andrei Kurkov, autore ucraino che racconta nel suo Api Grigie la storia inventata ma del tutto verosimile di Sergei Pashka, che si ritrovano la guerra in casa in Donbass. Confermata per quest'anno la formula che prevede eventi anche fuori Pordenone. Tony Capuozzo, ad esempio, sarà alle 21 a Cordenons. Nel capoluogo, tra gli eventi della serata, sempre alle 21, lo scrittore Paolo Nori racconta a Palazzo Vendramini l'autrice russa Anna Akhmatova, voce della Russia assediata dai nazisti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo avete sentito, un'anteprima subito oggi a Pordenone Legge con la presentazione del romanzo Api Grigie di Andrei Kurkov. L'appuntamento con lo scrittore al Teatro Verdi alle 18.30. Sentiamo. Un romanzo per raccontare la realtà di un paese dilaniato dalla guerra, ma dove rimangono anche squarci d'umanità. E Api Grigie, l'ultimo libro del più conosciuto scrittore ucraino contemporaneo, Andrei Kurkov. È il romanzo più realistico di quelli che ho scritto finora, anche se contiene in sé elementi surreali, perché la guerra è una surrealtà inserita nella vita di tutti i giorni. Direi che è una storia molto umana che racconta di un uomo che si è ritrovato la guerra in casa senza che lui lo volesse. Né soldatami né politicismi attivisti. Un conflitto che dilania le identità, come è accaduto allo stesso Kurkov, nato a Leningrado, oggi San Pietroburgo, nel 1961, di madrelingua russa, ma ucraino nell'anima. L'Ucraina è un paese multiculturale e multilinguistico. Prima della guerra, il 40% degli ucraini parlava russo, ma la guerra ha inferto un duro colpo alla cultura russa e all'uso del russo in Ucraina. Io stesso scrivo i romanzi in russo, ma oggi posso pubblicarli a Kiev solo in traduzione ucraina. Sono di etnia russa, ma ormai mi considero politicamente ucraino. Che paese uscirà dalla guerra? Me lo immagino nell'Unione Europea, ma sarà un'Ucraina distrutta economicamente e traumatizzata psicologicamente, bisognosa d'aiuto. Basti dire che è esploso il numero dei divorzi nel paese, mentre è crollato quello dei matrimoni. Ci vorrà una generazione per tornare all'armonia di prima del 2014. Понадобится как минимум одно поколение, 25 лет. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora una storia di solidarietà con la testimonianza di un medico in pensione dell'ospedale di Pordenone, appena rientrato dalla Tanzania, come volontario dell'ONG QAM. Sono stato a Tosa Maganga, in un ospedale provinciale di 190 posti, letto e ho lavorato in medicina. Lo incontriamo appena rientrato dalla Tanzania, dove ha trascorso un mese come volontario dell'ONG Medici con l'Africa QAM. Cesare Mazzaro è un medico internista in pensione dell'ospedale di Pordenone. Che situazione ha trovato, dottore, lì? Purtroppo la situazione è molto grave, l'ospedale è molto carente, c'è una carenza di strumenti, una carenza di farmaci, non c'è acqua, quindi l'ospedale è molto in difficoltà. Voi medici del QAM come operate? Con i medici locali, e proprio questa è la caratteristica del QAM, quella di lavorare con l'Africa, non per l'Africa. Il QAM promuove anche il prezioso progetto Prima le mamme e i bambini. Il QAM fa sì che le mamme dai villaggi partoriscano in ospedale per ridurre la mortalità materno e infantile, e questo è un risultato che sta raggiungendo. Dottore, lei è in pensione, come le è venuto in mente di andare a dare il suo contributo in Africa? Sono in pensione, penso, con una grande esperienza di medicina interna, e quindi credo di poter mettere a disposizione dei medici africani, dei medici italiani, la mia esperienza. Questo è il motivo per cui io parto per l'Africa. Lei porta la sua esperienza, cosa porta a casa lei dell'Africa? Ma a casa porto sicuramente tanto amore di questa gente semplice, umile, li porto nel cuore. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca presenta una patente di guida turca, ma falsa, alla polizia che lo aveva fermato per un controllo. È successo a Trieste, nella zona di via Sant'Anastasio. Agli agenti non sono sfuggite alcune difformità sul documento. L'uomo è stato così accompagnato in caserma, mentre il laboratorio per il falso documentale controllava la patente, che è risultata effettivamente contraffatta ed è stata sequestrata. L'uomo è stato denunciato per falso e multato per guida senza i necessari i documenti. Vediamo il tempo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a coperto sui monti. Le temperature registrate poco fa: Trieste 24 gradi, mare calmo con temperatura di 25 gradi, Gorizia e Udine 25 gradi, Pordenone 24, Forni di Sopra 18, Tolmezzo 20 gradi, Piancavallo 18, Sappada 17, Tarvisio 21 gradi. Sullo Zoncolanci sono 12 gradi, sull'Ussari 13, all'inizio 26 e a Grado 25. Temperatura del mare nella laguna 25 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA: dal pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili sulla zona montana, ma che potrebbero interessare verso sera anche la pianura e la costa. Sulla zona montana in quota soffierà vento moderato da sud-ovest, specie su Alpi e Prealpi Giulie. Domani cielo variabile, saranno possibili, specie nel pomeriggio, rovesci o temporali sparsi a carattere intermittente, con pause anche prolungate senza piogge. Presentato a Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica, che tra poco più di una settimana accoglierà 300 relatori per discutere e comprendere il futuro del pianeta. Prevedere e anticipare il futuro che ci attende, con le sue sfide, dagli sviluppi del cambiamento climatico e dell'emergenza acqua alla transizione energetica, dalle applicazioni dell'intelligenza artificiale ai nuovi farmaci e fino allo spazio da esplorare. Guarda a un mondo nuovo, come recita il titolo, la 12ª edizione di Trieste Next. A Trieste, con quartier generale in Piazza Unità, il Festival della Ricerca Scientifica accoglierà dal 22 al 24 settembre 300 relatori da ogni angolo del pianeta. Scienziati, umanisti e grandi personalità, assieme alle istituzioni scientifiche del territorio, delineeranno le prospettive future al pubblico e in particolare ai più giovani, alle scuole, alle nuove generazioni chiamate a governare il mondo nuovo. Tra gli ospiti di punta, Andrea Rinaldo, vincitore dell'International Stockholm Water Prize 2023, il Nobel dell'acqua, con cui si parlerà di risorse idriche, il giornalista inglese Henry Sanderson, autore del Prezzo della Sostenibilità, e poi il cosmologo Bruce Bassett e l'astrofisica Ersilia Vaudo, per esplorare lo spazio. E a proposito di stelle, la novità di questa edizione è dedicata a Margherita Hack. Nel decimo anno dalla scomparsa della scienziata e divulgatrice, è stato istituito il premio Science Book of the Year, pensato per favorire le produzioni editoriali che analizzino il mondo della scienza anche sotto l'aspetto etico e filosofico. Una trentina gli appuntamenti in lingua inglese proposti dalla sezione internazionale di Trieste Next, con tre filoni tematici: biotecnologie, scienze della vita e intelligenza artificiale. Spazio infine anche alla musica, con il concerto Oltre i confini al Teatro Miela, protagonista la Seaman Orchestra, composta da 40 elementi provenienti da 12 diversi paesi dell'Est Europa. Trieste, Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Salute mentale, Udine per 3 giorni, capitale della ricerca. Da oggi a venerdì a Palazzo del Torso, al forum organizzato dall'Ateneo di Udine, intervengono studiosi dal King's College, Southampton e Ginevra. In particolare si discuteranno le novità della ricerca sulla salute mentale di adulti, bambini e adolescenti, e ci sarà un focus sulle dipendenze. Gli incontri in lingua inglese sono riservati agli iscritti. Abbiamo sentito Matteo Balestrieri, ordinario di psichiatria all'Università di Udine. La salute mentale offre moltissimo sul piano degli interessi e degli sviluppi, sia sul piano della ricerca che sul piano della clinica. La salute mentale si è espansa su tanti aspetti, diciamo ci sono i disturbi tradizionali di cui la psichiatria si è sempre occupata, psichiatria, disturbi d'ansia, disturbi depressivi, ma poi c'è tanto altro che riguarda, non so, i disturbi dell'alimentazione, no? Per esempio, che hanno un boom, sono tutte cose che purtroppo sono in grande espansione, e l'uso di sostanze, l'altro grande tema, ma poi anche le sostanze come strumenti con cui poter intervenire, cannabinoidi, che cosa ci dice di nuovo in questo senso la ricerca, che possibilità abbiamo. Diciamo che poi c'è tutto l'aspetto cognitivo, noto come ADHD, cioè i disturbi dell'attenzione, i disturbi cognitivi, l'autismo. Cioè è un mondo vastissimo di cui dobbiamo occuparci, perché tutto questo riguarda poi la salute mentale. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Si conclude sotto il segno di Mozart il festival musicale che ha portato a Trieste 4 solisti di livello assoluto, oltre a numerosi appuntamenti collaterali. Ieri sera Angela Hewitt con l'orchestra del Verdi ha dato vita a 3 delle partiture per pianoforte e orchestra più importanti del compositore di Salisburgo. L'arte della variazione continua, il dialogo mai banale né scontato tra il solista e l'orchestra, l'eleganza in ogni minimo passaggio. I concerti per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart sono una pietra miliare nello sviluppo di questo genere musicale, punto di partenza obbligato per ogni esplorazione in questi territori. Angela Hewitt ha nelle dita e nella mente quello che serve per essere una guida ideale: raffinatezza di tocco, ricchezza di sfumature, attenzione al dialogo musicale cui Mozart dà vita con l'orchestra del Verdi di Trieste. Un'intesa che salta fuori fin dalle prime battute. Tre le pagine scelte da Hewitt per l'appuntamento conclusivo della rassegna Il Faro della Musica, organizzata dalla Società dei Concerti, il Rondò in Re Maggiore, e 2 dei concerti completi più significativi del repertorio mozartiano, quello in La Maggiore K488 e quello in Re Minore. L'appuntamento si iscriveva anche in un altro calendario, quello della stagione del Teatro Verdi, che oggi vive una giornata tutta dedicata ad Ezio Bosso, con un dialogo aperto al pubblico in programma alle 17 e un concerto del pianista Francesco Olivetta che comincia alle 20. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio alle 18 a Gorizia, in Sala Dora Bassi, prosegue il progetto Due Intellettuali a Confronto, da Caterina Percoto a Pierpaolo Pasolini e oltre, per una nuova mappa del Friuli letterario, promosso da Comune di Manzano, Premio Letterario Caterina Percoto e Università di Trieste. Protagonista lo studioso Flavio Santi, che citerà grandi nomi da Ippolito Nievo a Elio Bartolini, ma anche quelli da riscoprire e rileggere come Paola Adriano e Leonardo Zanier. L'intervista. Il punto di contatto più evidente è la friulanità. Sia la Percoto sia Pasolini tengono molto al Friuli, lo descrivono in maniera molto dettagliata, sia in italiano sia in friulano. Invece per quanto riguarda le differenze, diciamo che comunque Caterina Percotti è una donna dell'Ottocento, quindi legata anche a certi schemi più classici. Pasolini è pienamente uomo del Novecento, anzi più del Novecento, addirittura un uomo del futuro secondo me. Quindi in questo io vedrei la più grossa differenza, ognuno è figlio del suo secolo. Lei non ci parlerà soltanto di queste due grandi figure della letteratura friulana, ma anche di altri nomi noti e altri da riscoprire. Sì, cercherò di fare una carrellata, una passeggiata insieme al pubblico, segnalando alcuni nomi noti come Ippolito Nievo, ma meritevoli comunque di ancora di grandissima attenzione, e poi anche evidenziare la presenza di grandi autori che non sono minori, come ad esempio Paola Drigo, autrice di Maria Zeff, che è ancora un romanzo uscito negli anni 30 del secolo scorso, però modernissimo, che tocca tematiche modernissime. La letteratura friulana si conferma, insomma, la mia tesi è che sia una delle più ricche, non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale, proprio per tematiche, per modernità, per stili, per capacità espressiva. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Vassia Krismancic e Roberto Cavalli. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia alle 14. Il telegiornale sul terzo canale televisivo. L'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15. E da Nada Cioc e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.